Canto diciassettesimo della Divina Commedia Inferno di Dante Alighieri. Questa registrazione LibriVox è di dominio pubblico. Letto da Pierre. Canto diciassettesimo. Ecco la fiera con la coda aguzza che passa i monti e rompe muri ed armi. Ecco colei che tutto il mondo appuzza. Sì, cominciò lo mio duca a parlarmi e accennolle che venisse a proda vicino al fin de passeggiati marmi. E quella sozza imagine di froda sen venne ed arrivò la testa e il busto, ma sulla riva non trasse la coda. La faccia sua era faccia d'uom giusto, tanto benigna avea di fuor la pelle, ed un serpente tutto l'altro fusto. Due branche avea pilose infin l'ascelle, lo dosso e il petto ed amendue le coste dipinte avea di nodi e di rotelle. Con più color sommesse e soprapposte, non fermai in drappo tartari né turchi, né furtai tele per aragne imposte. Come talvolta stanno a riva i burchi che parte sono in acqua e parte in terra, e come là tra i tedeschi lurchi lo bevero s'assetta a far sua guerra, così la fiera pessima si stava sull'orlo che di pietra il sabbion serra. Nel vano tutta sua coda guizzava, torcendo in su la venenosa forca, che a guisa di scorpion la punta armava. Lo duca disse: «Or convien che si torca la nostra via un poco infino a quella bestia malvagia che colà si corca». Però scendemmo alla destra mammella e 10 passi femmo in sullo stremo per ben cansar la rena e la fiammella. E quando noi a lei venuti semo, poco più oltre veggio in sulla rena gente seder propinqua al luogo scemo. Quivi il maestro, acciò che tutta piena esperienza d'esto giron porti, mi disse: «Or va e vedi la lor mena. I tuoi ragionamenti sien là corti, mentre che torni parlerò con questa, che ne conceda i suoi omeri forti». Così, ancor su per la strema testa di quel settimo cerchio, tutto solo andai, ove sedea la gente mesta. Per gli occhi fuori scoppiava lor duolo, di qua, di là soccorrien con le mani, quando a vapori e quando al caldo suolo. Non altrimenti fan di stati i cani, or col ceffo, or col pie, quando son morsi, o da pulci, o da mosche, o da tafani. Poi che nel viso a certi gli occhi porsi, nei quali il doloroso fuoco casca. Non ne conobbi alcun, ma io m'accorsi che dal collo ciascun pendea una tasca, che avea certo colore e certo segno. E quindi par che il loro occhio si pasca. E com'io riguardando, tra lor vegno, in una borsa gialla vidi azzurro, che d'un lione avea faccia e contegno. Poi, procedendo di mio sguardo il curro, vidi in un'altra, come sangue rossa, mostrare un'oca bianca più che burro. Ed un, che d'una scrofa azzurra e grossa segnato avea lo suo sacchetto bianco, mi disse: «Che fai tu in questa fossa? Or te ne va, e perché se vivo anco, sappi che il mio vicin Vitaliano sederà qui dal mio sinistro fianco. Con questi fiorentin son padovano. Spesse fiate mi intronano gli orecchi gridando: «Vegna il cavalier sovrano che recherà la tasca con 3 becchi». Quindi storse la bocca e di fuor trasse la lingua come bue che il naso lecchi. Ed io, temendo non più star crucciasse lui che di poco star m'avea munito, tornaimi indietro dall'anime lasse. Trovai il duca mio che era salito già sulla groppa del fiero animale e disse a me: «Or si è forte ed ardito, o mai si scende per si fatte scale. Monta dinanzi, ch'io voglio esser mezzo, sì che la coda non possa far male». qual è colui ch'ha sì presso il riprezzo della quartana, ch'ha già l'unghie smorte, e trema tutto pur guardando il rezzo? Tal divennio alle parole porte. Ma vergogna mi fer le sue minacce, che innanzi a buon signor fa servo forte. Io m'assettai in su quelle spallacce, sì, volli dir, ma la voce non venne com'io credetti, fa che tu m'abbracce. Ma esso, ch'altra volta mi sovvenne, ad alto, forte, tosto ch'io montai, con le braccia m'avvinse e mi sostenne, e disse: Gerion, muoviti omai. Le ruote larghe, lo scendersi a poco, pensa la nuova soma che tu hai. Come la navicella esce di loco, indietro, indietro, sì, quindi si tolse, e poi, ch'al tutto si sentia giuoco, là ver'al petto la coda rivolse, e quella tesa come anguilla mosse, e con le branche l'aere a sé raccolse. Maggior paura non credo che fosse, quando Fetonte abbandonò i freni, perché il ciel, come appare ancor, si cosse. Né quando Icaro misero le reni sentì spennar per la scaldata cera, gridando il padre a lui: ma la via tieni! Che fu la mia, quando vidi ch'io era nell'aere d'ogni parte, e vidi spenta ogni veduta, fuor che della fiera. Ella sen va notando lenta, lenta, ruota e discende, ma non me n'accorgo se non ch'al viso e di sotto mi venta. Io sentia già della man destra al gorgo far sotto noi un orribile stroscio, perché con gli occhi in giù la testa sporgo. Allor fui io più timido allo scoscio, perché io vidi fuochi e senti pianti, ond'io tremando tutto mi raccoscio. E vidi poi, che non vedea davanti, lo scendere e il girar per li gran mali che s'appressavan da diversi canti. Come il falcon, che stato assai su l'ali, che senza veder logoro o uccello fa dire al falconiere: oimè, tu cali, discende lasso, onde si muove snello per 100 ruote, e da lungi si pone dal suo maestro, disdegnoso e fello, così ne pose al fondo Gerione, a pie della stagliata rocca, e discalcate le nostre persone, si deleguò come da corda cocca. Fine del canto 17.